sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, benvenuti nelle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto e siete all'interno della programmazione serale chiamata Blu Radio Sera. Buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e da chi conduce insieme a me martedì sera, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora Maurizio, questa volta abbiamo la musica folk che viene a trovarci a Blu Radio Veneto e un artista che arriva dall'Alto Vicentino, ero tentato di dire dall'Alto dei Cieli, in realtà no, dall'Alto Vicentino, quindi stiamo parlando di cose ben più, come dire, non di spirito ma di ragione in questo caso, e soprattutto abbiamo in carne ed ossa un ospite che viene a trovarci appunto dall'Alto Vicentino, si chiama Marco Zordan. Buonasera Marco. Ciao, ciao a tutti. Allora, Marco, innanzitutto ho fatto buon viaggio? Sì, certo. Non sei traffico, arrivato? Traffico. Sì, il traffico in autostrada soprattutto si vede, e grazie a Dio che c'è anche il traffico, perché è segno che la crisi c'è, ma non più di tanto a questo punto, no? Ecco, allora Marco, ho visto che non sei da solo in questa serata, ma sei stato accompagnato da due gentili donzelle che sono qui con te per accompagnarti durante questo tragitto per conoscere la tua musica. Sì, quindi se vuoi presentarti. Sì, allora alla viola c'è Pamela Nicoli. Eccola qua, Pamela. E alle tastiere Anna Maria Bortoloso. Ecco qua, Anna Maria Bortoloso. Allora, Marco Zordan con un nuovo disco che si intitola Qualcosa del Tempo e che è una raccolta di 6 splendide canzoni molto minimaliste, oserei dire, e che trattano di qualcosa del tempo. Come mai innanzitutto il titolo di un album riservato al tempo, Marco? Ma perché penso anche dalla copertina sia abbastanza esplicativo quello scatolone, quell'idea di racchiudere ciò che magari non è più tuo o che comunque non vuoi tirar fuori o vuoi tirar fuori in un futuro quando ti servirà, quindi non un qualcosa del tempo legato semplicemente al passato ma anche al futuro, a qualcosa che probabilmente ti potrà servire. E quindi in questi 6 pezzi è racchiusa un po' una specie di concept che riguarda appunto il tempo e comunque il tempo legato all'amore, il tempo legato ai legami, il tempo legato alla società, alla situazione in cui vivo. Benissimo, allora visto che sono le 21:10 e abbiamo perso già qualche minuto prezioso per far ascoltare la tua canzone e visto che gli strumenti sono già accordati, direi di partire presentando quelle che sono le tue canzoni. Da dove iniziamo, Marco? Allora iniziamo da una canzone che è un inedito, che lo proponiamo da un po' nei concerti, si intitola Per i tuoi occhi. Benissimo, allora Per i tuoi occhi, Marco Zordan, accompagnato da Anna Maria e da Pamela qui a Blu Radio Veneto. Se vieni, facciamo anche un buon aperitivo. Sei sicura che il mondo è come lo volevi? Non sei sorpresa. Vuole bene da chi ti prende i soldi a fine mese. Per i tuoi occhi me sorella di tua madre morta, quando ancora la neve scendeva e bruciava gli angoli delle strade. Erano bei tempi, la gente sorrideva. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fantastiche melodie del martedì sera. Maurizio, allora che ne pensi di questo? Io penso una cosa molto importante. Molto importante, sì. Penso una cosa. Pamela suona la viola e la viola era lo strumento di John Cale dei Velvet Underground, la viola impazzita di John Cale dei Velvet. Quindi si parte, i Velvet avevano una musica un po' particolare, molto raffinata e nello stesso tempo rock. Questa è una musica folk, ma un folk che odora di dark, perché la viola è uno strumento dark, c'è poco da oscuro, tenebroso e malinconico. Cosa dici, Marco, su questo? Sì, forse è proprio vero. Io sono legato, cioè sono legato praticamente a determinate anche melodie, o comunque vengo da ascolti legati. Dei Smashing Punkies, esatto, sei nato con gli Smashing Punkies, sei Radiohead. Ma tra l'altro gli Smashing di Adore, quindi di Adore, album quindi, molto malinconico, nostalgico. E sono sempre stato abbastanza vicino a quel tipo di musica, sì, sì. E comunque tu dici, Marco, perlomeno ho letto da alcune interviste che tu hai già tenuto anche con altre spettabili testate, che non importa quale sia la musica, purché ci sia una canzone per trasmettere emozioni. Dicevi così nelle Sì. Penso che ormai tutti i gruppi sono troppo etichettati, allora c'è chi è cantautore, chi indie pop, chi è troppo folk, chi meno, chi underground, chi metal, cioè insomma alla fine che se ne voglia, noi veniamo tutti da una scuola, ascoltiamo tutti della musica e prendiamo un po' di qua, prendiamo un po' di là. È molto difficile inventare qualcosa di nuovo e una base c'è sempre, quindi alla fine il tutto è canzone da ascoltare. Anche perché tu come cantautore sei, diciamo, anomalo, no? Che tu sia l'unico, però diciamo le tue canzoni nascono al contrario, ovvero c'è chi come cantautore usa prima il testo, in base al testo e all'impronta che vuole dare sistema la musica. Tu invece parti dalla musica, quindi dall'emozione, sì, non in forma di parola. Esatto, forse perché appunto io alle basi ho dei gruppi musicali in cui c'era la batteria, quindi gruppi di più stampo, per così dire, rock, e quindi la forma canzone non partiva dal testo ma dalla musica probabilmente, quindi ho mantenuto questo andazzo. Le tue origini partono da da Iverdena, da Dente, dagli After Hour, da Merlene Kunz. Sì, beh, questi i Perturbazioni. Sì. Ah, a proposito, hai aperto dei concerti dei Perturbazioni. Sì, Perturbazioni hanno questa caratteristica di usare la melodia in una certa maniera, secondo me. Sì. I Perturbazioni mi piacciono parecchio, come mi piace parecchio anche un altro gruppo veneto che sono i Non Voglio Che Clara, che sono venuti qua a presentare il disco nuovo qualche tempo fa. Ah, addirittura, bene. E Fabio De Mi, esatto. Sì. E anche Fabio De Mi ha quella caratteristica di usare gli strumenti ad archi, spesso e volentieri ad archi, quindi anche la viola, il violino, e certe tematiche decisamente decadenti. Sì, esatto. È un cantautore stile molto Luigi Tenco, e quindi molto bravo, tra l'altro. Esatto. Con Clara, un gruppo molto interessante. Esatto, sì. E quindi, diciamo che ho avuto la fortuna di aprire dei concerti a delle persone anche importanti nel panorama italiano. Penso anche a Lubia. Certo, Lubia, che è un'altra brava cantatrice. Sì. È arrivata al finale di Recanati, mi pare, recentemente. Ecco. Quindi, una cosa molto importante. Sì. Ecco. Ed è passata anche lei da queste parti. Esattamente, più di una volta. Volevamo ricordare anche porta questo. Fortuna, allora, prima, mentre si faceva la scaletta, naturalmente Marco ha scritto canzoni a nastro, per dire ci stanno tutte all'interno di questa trasmissione. Noi vediamo di farcene stare il più possibile. Allora, sceglieremo volta per volta. Allora, all'origine si voleva parlare solo di Qualcosa del Tempo, che è appunto la tua ultima produzione, che contiene ben 6 canzoni, come tu hai definito un concept album. Però la tua carriera artistica è densa, perlomeno è fermo l'altro giorno, a 230 canzoni, ma è facile che in questo periodo tu ne abbia scritte almeno altre 2. Superato, sì, 230. Ecco. Sì, quindi esatto. Vediamo, ad oggi quante sono, Marco? Sui 230. Ecco, sempre. Questa è la cifra. 232, probabilmente. Perfetto. Allora, tra le 232 canzoni una al tuo attivo, un'altra a caso, che ci vuoi fare dal vivo e che non riguarda assolutamente il tuo disco Qualcosa del Tempo? Sì, si intitola Anni 30. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Anni 30 qui a Blu Radio Veneto. Senza tante parole, facciamo i conti ora con le ore. Non credere, Selene, che qui vada tutto bene. Non credere, che qui vada tutto bene. Le fate e i folletti sopra i tetti. Selene, che qui sta andando tutto a puttane. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. E tramite le parole di Marco Zordan abbiamo capito anche come sta andando il mondo in questo momento, e diciamo che ci stava bene in questa versione canora. Allora Marco Zordan è qui ospite ai nostri studi all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, e questa è un'altra canzone dal vivo che ci ha voluto regalare, una canzone che si intitola Anni 30. Ma che differenza c'è tra gli anni 30 e gli anni 2012? Ecco, un'altra cosa, volevo specificare che i miei titoli di solito non c'entrano nulla con le canzoni. Ecco, è là che volevo proprio portarti. Esatto, perché... o raramente. Sì, perché cercavo anche... di capire perché c'entrava l'anni 30. Sì, no, certo. No, no. Sì. Anche perché appunto con i tuoi testi cercavo appunto di vederci chiaro. In realtà è stata una scommessa persa in principio, perché cercando anche di capire un nesso, niente, assolutamente, niente. È solo melodia, solo melodia, quella, esatto, che tu proponi, esatto. Però anni 30 è una canzone dove un pastore errante dell'Asia si rivolge alla luna, perlomeno se è questo che ho inteso bene, e gli chiede cosa sta succedendo, come è cambiato il mondo, cosa ci sarà ancora da fare. Diciamo che è partita questa idea di questa canzone da un incontro di due persone, un prato, una coperta, quando dico appunto parliamo di noi, di cosa ci aspettiamo, chi mette l'esca, chi mette l'amo... appunto questo gioco di parole con l'amo, e quindi un'idea di incontro che poi però non finisce in nulla sostanzialmente, e quindi forse ci potrebbe essere un nesso tra il periodo di tempo e l'inconclusionalità del discorso, comunque dell'incontro, sì. Musicalmente è un pezzo piuttosto velocizzato, sì, esatto, e qui c'è un piccolo collegamento con Dente, secondo me. Ah, sì, ecco. C'è qualcosa nel tuo modo di interpretare questo pezzo, quasi l'hai catturato e l'hai dato molto, molto, molto potenza al pezzo. Chiaramente la viola e le tastiere ti hanno seguito, tu hai dato un certo sviluppo al pezzo, chiaramente. Dal vivo è proprio così, in una stessa maniera, così veloce, così pomposo, così esatto, forte. Vabbè, io ho iniziato, diciamo, 3 anni fa a suonare da solo, e quindi ero chitarra e voce, e poi pian piano, con l'arrivo di nuove strumentiste... E l'idea della viola e delle tastiere, esatto, com'è nata? C'era questa necessità di avere degli strumenti in più, e comunque gli strumenti che pensavo fossero adatti per questo tipo di musica erano appunto la viola, o comunque un violoncello, un violino, E la tastiera. Sicuramente, sì, e sicuramente la tastiera. Bene, allora cogliamo l'occasione per salutare il nostro direttore artistico Alberto Prisco, certo, ma per salutare anche Roberto Baldi. Grazie a Roberto, Marco Zordan è qui con noi in questa serata, e abbiamo anche la fortuna di avere Roberto qui con noi. Buonasera Roberto, buonasera. Flavio, un salutone a tutti, buon ascolto, grande live questa sera, mi fa piacere rivedere. Esatto, grazie. Una persona che ho conosciuto per caso, diciamo così, perché ero lì per caso, e è stato piacere che la cosa continui, perché la musica deve essere una cosa che tutte le cose belle nascono sempre per caso, e non bisogna costruirle più di tanto. Marco Zordan è qui con noi, grazie ancora a Roberto. Allora, questa volta torniamo seriamente a parlare di quel qualcosa del tempo, che è il tuo ultimo disco, perché ci presenti Il Principe Felice in versione live. Sì. Nascosto dentro la tua borsa sentimenti autunnali, come il cioccolato amaro che tu stringevi in mano, consapevole di una vita che ti voleva al fianco mio. Comprata a prezzo pieno, la nostra storia non è in saldo. Accarezzami, fugace abbraccio, nell'aldi qua. Tu sai, Oscar Wilde, sul mio volto ti Veneto, il Veneto come noi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato Il Principe Felice, si intitola così questo pezzo, che è il primo brano del CD Qualcosa del Tempo. Un principe felice, e poi mi deve spiegare Marco, anzi ricordiamo i nostri ascoltatori che Marco Zordan è qui con noi per suonare le sue canzoni e per poterle commentare insieme, per conoscere qualcosa di più della sua musica. Allora Marco, in questo Il Principe Felice, tu non dirmi che non c'entra niente con la canzone, però no c'entra in ma questo, c'è questo Oscar Wilde, sì. Oscar Wilde è quello che tu tra le righe offri come il ritratto di Dorian Gray. Sì, anche Il Principe Felice, diciamo che come racconto di Oscar Wilde è tra i miei preferiti. È un autore che apprezzo molto, diciamo, e comunque in parte pensando un po' anche alla canzone, le tinte malinconiche, l'autunno, le foglie che cadono, questo, la storia del principe felice, appunto, di questo uccello, appunto, che dà il diamante incastonato nell'occhio del principe per aiutare una famiglia in difficoltà. Diciamo che da lì è partita l'idea di questa canzone, l'idea della calma, della partenza, il cioccolato amaro nascosto nella borsa, questa calma che accompagna il brano, soprattutto nel primo tratto. E quindi in questo caso il titolo della canzone c'entra qualcosa rispetto alle altre. E infatti dopo ho voluto inserire anche Il Principe Felice e anche come prima canzone Qualcosa del Tempo, perché appunto parla di un tempo ben definito, dell'autunno, del cambiamento, dell'estate che finisce e comunque una serie di cambiamenti che stanno per avvenire. Volevo chiedere a Pamela e ad Anna Maria la difficoltà di eseguire un pezzo simile, è molto complesso secondo me, perché tu parti in una determinata maniera, poi ti fermi, poi riprendi e ti fermi ancora. Prima la Pamela che suona la viola e poi l'Anna Maria che suona le tastiere. Dimmi, allora, Pamela. Buonasera a tutti. Buonasera. La difficoltà è di seguire Marco in questo loro questo volo pindarico musicale. Sì, la sostanziale difficoltà è questa, di cercare in primis di capire in che tonalità vuole suonare la canzone. Ecco, Marco, quello è importante. A volte non è facile. Questa storia, Silla, no, da tre mesi facile, a sapato. Specialmente parlo per la mia esperienza, sono uno strumento acustico che non è armonico, è uno strumento che fa melodia, si insinua magari difficilmente in questo tipo di musica. Quella è un po' la difficoltà, cercare di trovare un piccolo riff, qualcosa che particolareggi la canzone e poi cercare di inserirlo nell'armonia di tutti gli altri, insomma. Anna Maria, tocca a te adesso. Buonasera a tutti. Non vedevo l'ora di parlare, Anna Maria. Sì. Io sono l'ultima arrivata. Sono. Dato che siamo in 10. Sì. No, l'ultima arrivata. Suono con Marco da 3 mesi. E, per me la difficoltà è stata quella di entrare in un gruppo già rodato, già avviato, e inserirmi con degli arrangiamenti che potessero soddisfare. È una cosa importante, è una cosa da sottolineare, la voce di Marco è una voce un po' particolare, abbastanza forte, ma anche con determinati vibrato. Esatto, quel vibrato, no? Il vibrato è in difficoltà anche te con la viola in alcuni momenti, secondo me. Oddio, forse a volte il mio vibrato mette in difficoltà lui, a volte mi dice non fare troppe cose che mi confonde. Però effettivamente la voce di Marco è molto particolare. Sì. Sì, ha questi vibrati che a volte possono creare un po' di fastidio, lo ammetto, però a me le cose particolari piacciono e la voce di Marco ha qualcosa sicuramente di particolare, di unico. Certo, certo. Bene, allora siamo con Marco Zordan, pian pianino stiamo cominciando a conoscere quella che è la sua musica. Il suo ultimo lavoro si intitola Qualcosa del Tempo, ma sappiamo che ha ben 232 canzoni al suo attivo. Le ascolterete tutte stasera. Le ascolteremo tutte stasera, proprio una dietro l'altra, con delle piccolissime pause affinché Marco possa prendere da bere qualcosa. E, no, stiamo scherzando ovviamente, andiamo avanti fino alle 22.30 proponendo comunque sempre la musica di Marco Zordan. Allora, un'altra canzone live in questo caso, c'è Margherita. Margherita ha a che fare con un fiore o con una persona? Con entrambe, lo scoprirete. Allora scopriamolo insieme a Marco Zordan qui a Blu Radio Veneto. Lucido suona ancora un po', Margherita, ach, echinacea tra i capelli. Setata di sangue che non sa curare i miei pensieri, sopravvivere all'anima. Ma non ricordo alla fine che ci siamo detti di nuovo. Più dell'altra sera, più dell'altra sera, più dell'altra sera. Quando mi stringevi ancora. Quadro impressionista non è nella mia lista da scartare, di persone da dimenticare come te. Ma non ricordo alla fine che cosa ci siamo detti di nuovo. Mi stringevi ancora ed ora sorridi nel sonno. Ed ora nel sonno sorridi. Ma quanto pesano quelle coperte senza me. Dell'altra sera, più dell'altra sera. mi stringevi ancora. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Grandi emozioni sono racchiuse all'interno di questa Margherita, a cantarla Marco Zortan, accompagnato da Anna Maria e da Pamela, in questa serata del 3 luglio 2012. Allora, stiamo presentando appunto con Marco Zortan Qualcosa del tempo, che è il suo ultimo lavoro. Ma Marco, facciamo un passo indietro. Cosa mi racconti del Coperchio del Cielo? Allora, il Coperchio del Cielo è stato il primo esperimento musicale, diciamo, registrato in casa completamente con un programma nel computer, senza una scheda audio. Io suonavo tutti gli strumenti, dalla chitarra alla tastiera. Diciamo che è stato un piccolo bootleg di 150 copie. È uscito circa 3-4 anni fa. E niente, mi ha aiutato un po' ad entrare a capire, a creare canzoni, insomma, a creare gli arrangiamenti, perché a me piace comunque creare anche la melodia, non solo l'accompagnamento, e quindi è stato un primo esperimento. In alcuni momenti, diciamo, in questo pezzo che abbiamo sentito qualche secondo fa, tu declami, cioè più che cantare, declami testo. Sì, tanti mi hanno detto un che... po' alla CSI. Esatto, un po' alla CSI. Tutti mi dicono che questo più dell'altra sera sembra Lindo Ferretti, esatto, che appunto canta. Esatto, proprio questo. Esatto, io non mi sono mai reso voce, conto. Anche il vibrato, esatto, stesso, esatto, che ricorda. Potrebbe essere, sì. Beh, non mica un paragone negativo, assolutamente, è un grande genio. No, esatto. Quindi un po' declami, sì, esattamente. Un tuo modo, una tua caratteristica, un tuo modo di esprimerti. Sì. E la viola e la tastiera ti accompagnano in questa declamazione, secondo me, e evidentemente in questo pezzo ancora di più degli altri, a mio parere. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, sì. Sì. Beh, certamente, perché appunto dopo tutti questi commenti che mi facevano, guarda, sta canzone qua sembra una canzone di GSI, sto ritornello, sto... effettivamente poi ascoltando bene e ascoltandomi, entrando... un po' nella mente di Lino Ferretti, dicendo, pensando appunto, guarda, potrei cantare come lui in questo caso, cioè non sono come lui, diciamo, però in questa situazione, in questo momento ci assomiglio, sì, perché, diciamo, certe, sì, linee melodiche sono, sì, molto oscure, sì, l'oscurità, esatto, ma poi appunto è un cantato, sì, quasi recitato, è vero, esatto, cantato recitato, sì, hai ragione, sì, è cantato recitato, e quindi, sì, anche perché è anche un cantato che qualcun altro ha definito anche tipo un dipinto d'autore, perché la musica non la suoni ma la spennelli, in questo caso, Marco. Sì, come hai preso in positivo questa... no in positivo, sì. Sì. Diciamo che nella provincia dove vivo, in primis è molto difficile suonare e suonare questo tipo di canzoni. Sì, conosciamo, diciamo, la provincia di Vicenza, è sempre, sì, molto, sì, legata a un rock più sostenuto. Sì, no? Esatto, abbiamo delle zone ben precise, la zona di Thiene magari legata all'hardcore, al punk, la zona di Vicenza molto più al metal. La zona di Schio invece è molto quella più underground, legata al rock comunque, e quindi il cantautore trova pochi spazi e... anche offrendosi gratis, come tu hai detto in intervista. Sì, anche, sì, vengo gratis a suonare, neanche quello ti hanno fatto fare. No, è proprio difficile. È proprio difficile, e poi soprattutto ti scontri con delle realtà che comunque tu chiedi, vai, ti proponi anche gratis, e non ti rispondono nemmeno alla mail, nemmeno per cortesia, non ci interessa il tuo progetto, non perdono nemmeno il tempo ad ascoltare. A noi sì, però interessa. A noi sì. A Blu Radio Veneto assolutamente interessa proporre quella, esatto, che è la musica, diciamo, chiamiamola alternativa, ma in realtà è la musica, diciamo, che piace, sicuramente non al primo impatto, ma non è quello probabilmente che tu vuoi, che si ascolti subito e che entri al primo impatto, anche se una delle canzoni, non so se avremo tempo ad ascoltare stasera, la canzone della semplicità, facciamo. Entra subito, sì, sì, dove, esatto, deve è entrare. Un tormentone per, sì, prendere appunto in giro determinate classi o comunque determinati ambienti, certo. Ma ascolta, per stravolgere un po' la scaletta, sì, si riesce a farla dal vivo questa? Certo. Allora proviamoci subito. pipi, pipi, pipi, ripi, pipi, pipi, pipi, ripi, pipi, pipi. Sono migliore grazie a te, sono migliore anche perché mi sento un lampadato sotto il sole. Un figo della Madonna, senza nessuna responsabilità. Ora mi ci vorrebbe anche una donna con cui cantare. Pipi pipi ripi pipi, pipi pipi ripi pipi, pipi pipi ri. La canzone della semplicità. Sono un temporale e tu non mi puoi bastare. Ma allora cosa cerco una donna a fare? Mi sento un figo della Madonna, col cabrio sfasciato senza la radio. Ora mi ci vorrebbe anche un cane con cui cantare. Pipi pipi ripi pipi, pipi pipi ripi pipi, pipi pipi ri. La canzone della semplicità. Pipi pipi ripi pipi, pipi pipi ripi pipi, pipi pipi ri. La canzone della semplicità. Ho ancora i denti sani, pronti a mordere anche il buon vicino. Una penna e parole pronte per vomitar questa canzone al suono di pi pi pi pi ri pi pi pi pi pi pi pi ri pi pi pi pi pi pi pi ri pi pi pi pi. Pipi, mamma pupu, papà pupu, mamma pipi, papà pupu, mamma pipi. Papà pupu, mamma pipi, papà pupu. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Marco Zordan è qui ospite nei nostri studi per proporci il suo ultimo lavoro, Qualcosa del tempo si intitola, e non solo. Abbiamo ascoltato la versione dal vivo della canzone della semplicità, che poi verso la fine sembrava proprio la canzone del bisogno, dove esatto, dicevi mamma pipì, mamma pupù, sì, in questo sì, caso. Ma questo ritornello per garanzia della semplicità, allora, visto che anche la pipì è considerata una cosa semplice per i bambini. Diciamo che bisognava creare una canzone di protesta, e siamo nel 2012, le canzoni di protesta non funzionano più come quelle degli anni 60, e quindi questa poteva essere una canzone di protesta legata più agli ambiti, agli ambiti dei locali dove si può suonare o dove non si può suonare, o comunque alla musica commerciale in genere, perché ci siamo dimenticati prima anche dei gruppi cover che sono molto gettonati, sì, nei bar delle molto zone. Gettonati, ma qua non hanno vita facile. Immagino. Diciamo. E quindi la canzone della semplicità, a che punto della scaletta la inserisci? Perché mi sembra sia una di quelle canzoni che ravviva un po' quella che è la tua. Sì, sì, diciamo verso la fine comunque. io presento le canzoni dicendo solitamente che questa è una canzone triste, e quando si arriva alla canzone della semplicità si beccano una canzone che non è triste come le altre. Una pop song praticamente. Una pop song. Sì, una pop song che cerca di far muovere la gente. Esatto. Di prendere in giro anche le pop song, però. Di prendere in giro anche le pop song, esatto. Mi pare giusto. E quindi diciamo che la tua collocazione all'interno di un locale è assolutamente una collocazione acustica, tutti diciamo seduti, esatto, in un ambiente assolutamente familiare, quindi poco spazio intimo ai palchi classici. Esatto, penso di non aver mai suonato nemmeno in un palco classico, diciamo sempre ambienti abbastanza raccolti. Dopo, da un po' di tempo, anche organizzo dei concerti gratuiti nelle case di chi mi ospita, dei live acustici. E poi ero partito un paio d'anni fa nell'organizzare dei concerti nei prati della mia zona, in mezzo ai prati d'estate. Ma come nasce un home live? Ma semplicemente si sparge la voce in giro, magari anche con i nuovi mezzi di comunicazione tipo Facebook. Sì, questa sera tutti a casa di per ascoltare Marco Giordano. Esatto, uno si prenota, diciamo, viene, funziona semplicemente così. Oppure chi desidera creare questo piccolo concerto invita lui stesso le persone. E quindi invita da prima Marco Giordan e poi tutte le persone, esatto, per fare, diciamo, un regalo a loro, per fare una serata. Sì, o semplicemente una serata alternativa e gratuita, ovviamente. Certo, ma vai nelle case, vai con la Pamela e l'Anna Maria. Ma non siamo ancora andati. Ah, no, ancora andati. 2 anni fa sono andato un paio di volte da solo, anche 2-3. Siamo andati. No. C'era Pamela fa segno che c'era anche lei, c'era anche se lei. Lo ricordo. Prima di Anna c'era un'altra tastierista, e la scorsa estate abbiamo fatto un concerto, appunto. Questo andare nelle case della gente è una cosa che ricordo, non so se ti ricordi, Flavio, non so se eri presente a te. C'era Jont, musicista, Jont, sì, che è venuto qua a suonare, e lui è un musicista inglese, e in America, negli Stati Uniti, spesso e volentieri ha preso piede questa forma di andare a suonare nelle case, e lui ha fatto un sacco di concerti in giro per l'America nelle case delle persone che lo chiamavano praticamente. Fantastico. E sempre in dimensione acustica come te, chitarra e voce da solo, in genere. È una cosa molto interessante, molto intelligente, secondo me, per portare la musica anche in nelle luoghi case. Esattamente, in luoghi non propriamente la gente se non può muoversi. Esattamente, anticonvenzionale. Bene, adesso facciamo la caratteristica domanda per capire un po' da quella che è la sponda musicale che ascolta Marco Giordan. Dovendo portarti 5 dischi appresso o 5 CD, quali sono i nomi abbinati a un disco che vorresti portare? Poi magari facciamo partecipare al gioco anche Anna Maria e Pamela, così da metterle in crisi. Certamente. No? Beh, allora, sicuramente di Smashing Pumpkins. Adora hai parlato. Adora, esatto, sì. E l'ultimo l'hai sentito? Oceania no, non ancora. Sono andato a vederli però a Padova lo scorso anno, sono venuti questo autunno, insomma. Sì, esattamente. Come sei stato? Come l'hai sentito? Sei sembrato? Bill Cogan era sempre lui? Bill Cogan era sempre lui, secondo me. Io non li avevo mai ascoltati dal vivo, ho detto vado, però ovviamente era solo lui e mancava tutto il resto. Esatto, sì. Comunque ancora sono bello. La sua voce è corposo. Inimitabile, è una voce inimitabile. Sì, esatto. Esatto, dopo io sono partito anche a far cover con un amico degli Smashing, mi venivano anche abbastanza bene, diciamo, ecco. Poi Radiohead sicuramente, tra Ok Computer e The Bends forse, il secondo. Poi aggiungiamo qualcosa di italiano, Dei Cani dei Non Voglio Che Clara. Ah, bene. Sì, ottimo disco che loro hanno presentato qua, l'ultimo, un disco molto particolare, ma molto interessante. E poi in panorama internazionale mi piace anche Bon Iver ultimamente, o Damien Rice. Disco nuovo o disco vecchio di Bon Iver? Insomma, due diversi, ma mi piacciono entrambi. Bene. E vediamo, dai, un altro italiano, perché alla fine canto in italiano, ascolto quasi solo musica italiana. È difficile, forse quello che non c'è degli After Hours, forse. Il disco nuovo Padania? Ascoltato poco. L'hai sentito poco? Ho ascoltato poco, esatto. Sì. Tocca allora a Pamela, dai, vai verso il microfono. Strauss, Paganini. No, non solo. Naturalmente la mia, diciamo, dimensione classica mi fa portare un po' i grandi della musica, quindi non ho niente di specifico come Marco, insomma. Quindi sì, Brahms, non so, Mozart, qualcosa di abbastanza conosciuto. Mozart è il rocchettaro dell'epoca. Assolutamente, quindi, sì, l'anticonvenzionale. Esattamente. E poi, come Marco, di internazionale me ne occupo gran poco. Sono un po' sul filone metal, ma diciamo che il mio, diciamo, bacino di riferimento è, grazie a mia madre, sicuramente i cantautori italiani, quindi Guccini, De André e i nuovi cantautori, la Consoli mi viene in mente, Fabi, ecco, insomma, il cantautorato italiano in generale. Bene, adesso tocca Anna Maria Bortoloso, che è la tastierista del gruppo, la new entry, come si è definita lei poco fa. Due dischi che io porterei con me ovunque sarebbero sicuramente Grace di Jeff Buckley. Brava, complimenti. E Tori Amos, Under the Pink. E poi qualcosa di Radiohead, anch'io, penso The Bands. E anch'io ultimamente sto apprezzando particolarmente Bon Iver. E anche Damien Rice, infatti condivido abbastanza i gusti di Marco. Ed è per quello che suona con te, Marco. Bene. E in mezzo ci sta Mozart. Mozart ci sta per tutto, esatto. Quindi ci sta sempre. Come Bach, d'altronde. Come Bach. Esatto. Bene, che Bach è diventato un profumo, no? Se non sbaglio. Esatto. Sì. È così. Vabbè, allora adesso prendiamoci un po' di riposo e facciamo girare un disco, anzi, non un disco qualsiasi, ma il CD di Marco Zordan, Qualcosa del Tempo. Si intitola e ci ascoltiamo la traccia numero 3, che prende il nome di I passi nella neve potranno ancora sostenermi. Eccola qua. Blu Radio Sera. Le tre sono a terra, dove siamo noi? Se il sangue può scorrere ancora, ci porterà via, via, più in là dell'infinito paradiso, di una storia compresa a metà dei tuoi. Bye. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato un altro pezzo di Marco Zordan, I passi nella neve potranno ancora sostenermi, tratto dal suo lavoro attuale, Qualcosa del tempo. Allora, è vero che i passi sulla neve ti potranno sostenere, Marco? Verissimo. Verissimo. Allora, dove è nata questa canzone? Guarda, è nata, il titolo, soprattutto, questa canzone parla principalmente di natura. E il titolo nasce da delle fotografie fatte da un mio amico durante appunto la stagione invernale, e quindi nel mio paese aveva nevicato, siamo andati a fare una passeggiata e quindi sì, abbiamo fatto delle fotografie del paesaggio, e c'era sto contrasto molto evidente tra l'industria del mio paese, perché sì, io abito in un piccolo paesino disperso però pieno di aziende, di fabbriche, e la neve, cioè la natura, perché la neve secondo me esprime quasi più di un albero ciò che è la natura. E quindi un po' questa canzone è nata con questo contrasto stridente tra natura e fabbrica, anche se con la neve, diciamo, uomo. Sì, anche se con la neve molte fabbriche, diciamo, si mimetizzano bene, quindi diventano sì, bianche, quasi al pari della strada o al pari della campagna o della montagna che tu hai come riferimento dove abiti. Sì, però possono mimetizzarsi, ma non scompaiono. No, si vedono le ciminiere, si vede il fumo. E quindi, sì, quindi descrivi, sì, descrivi un grande Il paesaggio viene rovinato. Un grande contrasto tra quella che è la natura, sì, e quella che poi è la necessità umana di produrre, per cui anche le industrie, e nessun territorio, diciamo, soprattutto nel nord-est, è esente dal fatto di presentare accanto a un bel prato verde anche un'industria che in molti definiscono industria grigia in questo caso. E allora abbiamo ancora, mi devi raccontare una cosa prima di passare ancora alla musica. Si parlava prima fuori dalla diretta, mentre andava la canzone, che c'è un concorso particolare in quel di Vicenza. Sì, è partito circa 2 mesi fa, adesso è finito. È un concorso, si chiama appunto Vicenza Net Music. Noi eravamo stati scelti tra le 20 canzoni finaliste con La bellezza migliore, la canzone che dopo vi faremo sentire magari se c'è la possibilità. Sì. E appunto questo concorso ha 3 premi fondamentali: un premio dei votanti con votazioni online e voti cartacei del giornale di Vicenza, un voto dato dalla giuria in base ai live sostenuti in varie serate, e un voto dato dal gruppo principale che suonerà al Ferrock, un festival vicentino, che sono i Marta sui tubi, che sceglieranno un gruppo di questi 20, tra questi 20, per far aprire il loro concerto sostanzialmente. Sì. Quindi noi stiamo aspettando l'esito. E quindi non c'è mai. Mica male suonare con Marta sui tubi. No, sarebbe interessante, un gruppo indie molto interessante. Sarebbe una cosa molto particolare. Bene, allora speriamo che Marta sui tubi ascoltino anche questa trasmissione per capire anche l'approccio live di Marco Zordan, naturalmente accompagnato da Pamela Nicoli e da Anna Maria Bortoloso. Benissimo, allora un altro spazio dal vivo, cosa ci vuoi regalare adesso? Allora, questa canzone è una delle ultime che ho scritto, si intitola Un tulipano a Notting Hill. Anche stasera una nuova cena romantica. Ah, ah. Ho noleggiato anche le sedie, non avendone nessuna. Ah, ah, ah. E poi il regalo, i fratelli Karamazov. Per farti dormire presto mentre spengo la TV. Tulipano, quello bianco e nero che tu porti in mano. I lupi steppa si preparano ad uscire. Tra il fumo del bordello, perdendo l'orologio da taschino, ah ah, per telefonare sarà d'uso l'intercontinentale. La riforma ci farà spendere di meno. Tuli, tuli, tuli, tulipano, quello giallo e rosso che tu porti in mano. E poi mi canterai le canzoni che fotografavi tra gli alberi in giardino, seduta sulla terrazza a bere quel caffè con la mia tazza che profumava di edera. Quella panchina con me senza Ugo Grant, ah ah, il mio regalo è un tulipano. Tuli, tuli, tuli, tulipano, quello bianco e nero che tu porti in mano. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo ascoltato un altro pezzo rigorosamente live. Noi, a dire il vero, non lo conoscevamo il pezzo, perché Marco Zordan ci ha proposto il suo disco, sì, però poi ci ha inserito miriadi di canzoni e ricordavamo prima che sono ben 232 al suo attivo. Allora, un tulipano, come suona la canzone? Sì, un tulipano a Notting Hill. Beh, il titolo è nato appunto dalla rima un po' inconsueta nel finale, in quella panchina. Immagino il film Notting Hill, quel film mega romantico, sì, con la panchina sul prato, Notting Hill sotto l'albero, appunto. E quindi quella panchina con me, quindi senza Ugo Grant, Hugh Grant, sì, tradotto un po'. Hugh Grant, una rima assonanza. Sarebbe stata la domanda successiva, chi è? Sì, esatto. Ugo Grant. Ugo Grant, esatto, sì, sì, sì. Quindi il titolo nasce. Nasce appunto da questa idea della panchina. Così con me, quindi con me, senza un gran attore famoso. Una forma bellissimo, ironica. Bellissimo, esatto. Allora, esatto, vediamo di nominare anche chi ti ha aiutato nella produzione di questo disco, a partire, sì, dallo studio Corte degli Artisti di Carrè, sì, in provincia di Vicenza. Davide Apolloni, che è un ragazzo appunto che ha questa passione, ha questo piccolo studio. Ricordiamo che è anche un bassista, Apolloni. Esatto, sì, suona in un gruppo... sì, un gruppo che fa cover di Bon Jovi, mi sembra, e dopo segue anche un altro, fa il fonico appunto con un gruppo locale abbastanza famoso che sono i Valli Incantà, che prendono spunto da tradizioni popolari dialettali appunto per creare delle canzoni in lingua dialettale veneta, insomma vicentina. E appunto con l'aiuto di Davide Apolloni, che suona il basso, e un amico, Michele Bertezzolo, suona la batteria, che è il batterista anche dei Veronica, un altro gruppo vicentino abbastanza famoso, prima Vibra, mi sembra, sì, prima erano i Vibra. Sì, sì, sono venuti qua, esatto, all'epoca. Sì, esatto, i Vibra si chiamavano. E poi, beh, un grazie veramente grande appunto anche a Davide Bicego per la copertina. Lui è il ragazzo che mi segue sempre appunto nelle copertine, ha questa passione anche del cinema. A breve ci sarà forse un video di una canzone, quindi sì, sì, grazie anche a Davide. Descriviamo ancora una volta, visto che abbiamo parlato di Davide Bicego, la, sì, copertina tua, sì, molto minimalista come le tue, sì, canzoni. Una scatola aperta e una ragazza che ti guarda come per dire: sì, guarda, esatto, dentro la mia scatola, sì, cosa c'è? Potrebbe essere anche questa appunto interpretazione, come anche cosa metti tu in questa scatola. Cioè, nel senso, la scatola potrebbe essere anche vuota al momento, e quindi non solo magari la ragazza che guarda qualcosa che c'è già dentro, ma qualcosa che ognuno di noi potrebbe mettere dentro quella scatola, appunto qualcosa del tempo. Allora ricordiamo anche alcuni indirizzi elettronici via internet per entrare in possesso di maggiori informazioni riguardanti Marco Zordan. Sì, c'è il myspace.com Marco Zordan, oppure le pagine Facebook, digitando semplicemente il nome arrivano. Esatto. Arrivano. Mi trovate. Sì. Fisicamente il tuo disco nei concerti, allora? Nei concerti, fisicamente nei concerti e in qualche rivendita o negozietto locale della zona. Della zona, esatto. Benissimo. Di dischi locali. Colgo l'occasione per dire che la trasmissione è rigorosamente registrata e poi verrà messa all'interno dei nostri archivi sonori, che sono visitabili e ascoltabili in internet, e poi ancora sono state scattate alcune foto per documentare la serata, quindi potrete vedere il volto di Marco Zordan nonché di Anna Maria e di Pamela, che questa sera sono con Marco appunto per la presentazione dei suoi pezzi. Ancora qualche pezzo prima di lasciarci, visto che il tempo è tiranno, e ti proporrei di scrivere qualcosa anche riguardo al tempo. Perfetto, magari già sera già questa notte. Sera di rientro nella tua amata cittadina. Allora, cosa ci proponi, Marco? Allora, proviamo Meta Concreta, una canzone per chitarra e piano. Esco dall'autostrada prima per pagare di meno. Non ho perso il treno del tempo, non ho perso te. Un giorno sarà più facile vivere pensando ai ripiani di tamburato marrone e alle storie lette per te. Un giorno ti chiamerò per nome e leverai la maschera dal tuo cuore. Che tu sia la luna o qualche fottuto pianeta nella nostra meta concreta. Sei un bambino nella ragnatela, sei un bambino nella ragnatela. Le conti, le pallonate in faccia, giocando a tennis senza corde nella racchetta. Un giorno ti chiamerò per nome e metterai le corde nel tuo cuore. Che ci sia anche una stella marina, la tua mano sentirò vicina. Che ci sia la luna o qualche fottuto pianeta nella nostra meta concreta. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Una meta concreta che parte dall'autostrada, come ci ha insegnato Marco Zordan, perché l'autostrada è la, diciamo, il punto di riferimento per tutte le mete concrete. In questo caso sì. Allora, in questo caso sì. È confermato che anche questo testo ha un senso. Ha un senso. Mentre si diceva, come ricordiamo ai nostri ascoltatori, si diceva prima che non tutte le canzoni, anzi non tutti i titoli sono direttamente proporzionali al testo, anzi molte volte non c'entrano proprio niente. In realtà alcune volte il titolo, diciamo, dà più sensibilità a quello che è il testo che si vuole proporre, anche se, come si diceva prima, le canzoni di Marco Zordan nascono prima dalla melodia e poi dalla melodia si crea la canzone col testo. Come mai Marco solo tastiera e chitarra? Ma forse una scelta anche per spezzare, beh, questa canzone di solito è posta a metà concerto, quindi spezzare un po' la scaletta, una canzone un po' più tranquilla delle altre, più è un folk vivacizzato, esatto, leggermente mosso, movimentato, esatto, ma sì, tipicamente un pezzo folk secondo sì, me. Sì, sì, e in questo caso mi piaceva appunto l'accostamento abbastanza minimale della tastiera della chitarra con questo arpeggio e l'arpeggio suo appunto amalgamato a questa melodia. Bene, adesso abbiamo bene. Maurizio, abbiamo pochissimi sì. minuti ancora sì. da dedicare alla musica di Marco Giordano, quindi direi che dobbiamo caricare il nostro mitragliatore per sparare musica raffica ancora il più possibile. Quindi un altro pezzo dal disco di Marco Giordano, Qualcosa del tempo, con La bellezza migliore, che tra le altre cose è anche quel pezzo che fate ascoltare all'interno di quel concorso, e vi posso garantire che sicuramente vincerete con questo pezzo, no? E non lo dico perché siete qua. Vabbè, allora, La bellezza migliore. Olio di semi di girasole, quelli che non ti piacciono, tra fiori finti che coltivi ancora nel tuo giardino. Tra giornate di sole, la pioggia sta a sentire sola funeste parole in giorni tutti uguali. Andiamoli a cambiare. Voglio come lista della spesa ancora vuota. Oggi cosa mangiamo? Cosa mangiamo di noi? Preferisco ancora pesce. Corrente come salmone, coglione, chi ti dice che non crescerai? Confesso di essere più leggero. È tutto quello che mi sta aspettando ancora, ancora, ancora. Che risale la corrente come salmone, coglione, chi ti dice che non crescerai? Preferisco disegnare per capire la tua bellezza migliore, quella che non perderai. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La bellezza migliore, così si intitola questo pezzo che ci siamo ascoltati nella versione acustica direttamente ai nostri studi di Blu Radio Veneto, tratto da Qualcosa del Tempo. E io, ascoltandolo ancora una volta, mi sento di fare due parole dolci per il salmone. Che poverino, è una rima inusuale, è stato un po' insultato. Esatto. Nonostante la dolcezza del termine, però la potenza della parola si sentiva. Comunque la bellezza migliore è che ricordiamo far parte di quel festival che si citava prima. Adesso non mi ricordo più il Vicenza nome. Vicenza Net Music Festival. Abbiamo già descritto appunto la modalità di partecipazione e soprattutto la modalità per scalare, e con successo si spera, all'interno di questo festival. Allora, sono le 22:25 minuti primi, ci concediamo una piccola pausa riservata a un ultimo pezzo da disco, presentando Crisalide, e poi ci ritroviamo per i saluti. Siete d'accordo? Ok, benissimo, anche se non eravate d'accordo, dovevamo fare la stessa. Così, va bene. Blu Radio Sera. che vede riflessa nell'acqua la sua voce. Torna bambina, andiamo. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato un altro pezzo di Marco Zordan, Qualcosa del tempo è il titolo del suo lavoro, il pezzo si intitola Crisalide, un pezzo un po' diverso da quelli ascoltati sinora ad opera di Marco Zordan, anche per un finale del tutto particolare. Esatto, mi piace l'idea del partire con una canzone prettamente pop, cioè delle linee classiche, questo riff ripetuto, il basso, la batteria con una bella linea melodica, e poi arrivare al finale un po' noise, che stravolge un po' noise alla fine anche se il violino, poi la viola poi alla fine rientra nell'ambito, però molto più lontano dal pop iniziale. Fino a un certo punto è una canzone pop, poi però si sviluppa, cambia totalmente aspetto. Esatto. Diciamo un finale molto sperimentale, se mi è concesso, quindi a preludio anche di un'altra possibile sonorità delle canzoni di Marco Zordan. Sì. Abbiamo osato, però appunto, cioè, a me piacerebbe conoscere qualcuno che è in grado di utilizzare l'elettronica o comunque di creare qualcosa di particolare per dare anche un altro lato, un altro volto a determinate canzoni, forse sì. Un'altra valenza, dici, musicale. Esatto. E qui l'immagine, il collegamento con i CSI ritorna, assolutamente ritorna. Non per, così ritorna nel senso positivo del termine. L'elettronica e i CSI qualche volta se l'hanno messa, non dico sempre, però qualche volta se l'hanno imposta. Allora, ricordiamo come fare per entrare in possesso del disco di Marco Zordan. Allora, tramite il sito internet. Sì, esatto, mi contattate o per la mail, appunto, oppure ai concerti. Quello è forse più importante, venire ai concerti e ascoltare. Ecco, la non abbiamo musica. Ricordato date, ce ne sono? No, al momento no, in programmazione un paio sicuramente per luglio, altre due, sì, sicuramente, però a breve notizie nel sito, insomma. Possiamo dire, Marco, che se vogliono averti a casa possono farlo? Volentieri. Ecco, benissimo. Volentierissimo. Quindi, contattando Marco Zordan, scrivendogli anche un messaggio, poi vi potrete accordare per fare una serata, diciamo, insolita all'insegna della buona musica. Allora, Big Bang ha detto stop, come diceva Enzo Tortora un po' di tempo fa, lo ripetiamo anche stasera, sono le 22:33 minuti primi, tra poco inizia la trasmissione di Rock Wave dedicata ad hard rock e heavy metal, quindi non c'entra niente con la musica e con le sonorità che ci ha proposto Marco Zordan. E, allora, noi ti ringraziamo, Marco, per essere stato con noi. Tante. Ringraziamo anche Anna Maria Bortoloso, ringraziamo anche Pamela Nicoli per essere state con noi. Allora, prima di lasciarci, però, un'altra canzone. Sì. Allora, cosa? Allora, volevamo far sentire Polaroid. Bene. Allora, io e Maurizio salutiamo, lasciamo i microfoni aperti solo a voi. Grazie ancora, un felice rientro nel vostro ben amato paese nel nord di Vicenza. Grazie. Grazie a voi. Salutateci le montagne. Certamente. Ecco. Bene, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è tutto, buona serata, e vi lasciamo con Marco Zordan, il suo ultimo lavoro si intitola Qualcosa del tempo. A te, Marco, grazie a tutti per essere stati con noi. Ciao. Scrivimi una canzone di quelle che non fanno dormire la notte. Appoggia la testa sul cuscino, io ti sarò vicino. Vorrei una DeLorean grigia metallizzata per cancellare questa giornata. A forza di vedere i tuoi denti potrei risparmiare sulla bolletta e le lenti. Morte in un cimitero che sperano di incontrare un giorno qualcuno d'intero. Respiro vivo finché amo. Respiro vivo finché amo. Respiro vivo finché amo. Scrivimi una letterina, possibilmente non da Fukushima. Quella con i cuori adesivi che racconta le tue passeggiate. Scrivi con penne colorate, mettici dentro qualche fiore, facciamo anche i tuoi occhi, mettici un tocco di calore. Di quelle che non fanno dormire la notte. Blu Radio Sera.